e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, buongiorno cari amici, buongiorno a voi. Venerdì 28 luglio, una data che segna sicuramente per tanti di voi all'ascolto la fine di un anno lavorativo, diciamo così, e questa è un po' la fine dell'anno, di mesi intensi che ci hanno visti, vi hanno visti impegnati su tanti fronti dal punto di vista del cuore, dei denari, e che ora ci proietta verso nuovi orizzonti che per tanti sono gli orizzonti di bellissime mete di vacanza, voilà, o comunque gli orizzonti di qualche giorno di riposo. E così anche per noi di Radio 24, questo è per tanti programmi, lo avete sicuramente sentito, il giorno dei saluti prima delle ferie, anche per Cuore Denari. Devo dire, è una giornata un po' particolare, perché? Perché dopo quattro bellissime stagioni trascorsi insieme, una sorta di famiglia che si è creata, Deborah e io diciamo sempre un matrimonio combinato che poi è stato un grande matrimonio d'amore, questa è la nostra ultima puntata. Non temete, io e Deborah non scappiamo. Da settembre ci troverete sempre ai microfoni di Radio 24 in nuove collocazioni con nuove formule, ma sempre pronte a essere al vostro fianco, a dispensarvi i consigli anche un po' da maestrina, ci piace anche un po' farlo, ma voi ci volete bene così, della donna di denari, della donna di cuore, come abbiamo fatto in questi quattro anni, quindi stateci vicini. Abbiamo comunque di fronte ancora una bella puntata, ricca come sempre. Partiremo con i temi di denari. Oggi parliamo di disagi aerei, sempre in agguato quando si tratta di vacanze. Vi ricorderemo allora quali sono i diritti dei viaggiatori. E poi pensiamo a chi ad agosto resta solo in città, si trova a cercare un professionista, un artigiano per risolvere un'emergenza domestica. Bisogna fare attenzione, individuare naturalmente i professionisti onesti, e ne parleremo. E oggi chiudiamo la stagione di Cuore Denari e chiudiamo, l'ultimo venerdì del mese, torna l'appuntamento con Salute Uomo. Oggi un tema che ci sta particolarmente a cuore e che è stato riportato con grande eco sui giornali. Parliamo di infertilità. È uscito un maxi studio dell'Università di Gerusalemme, non è il primo, ne abbiamo parlato anche con Andrea Salonia proprio di recente, perché ne era uscito uno altrettanto importante che aveva un po' dato il quadro della situazione. Tornando a questo maxi studio dell'Università di Gerusalemme, fa scalpore perché ha analizzato una mole di dati importante, 43.000 uomini dal 1973 al 2011. E allora che cosa è venuto fuori? Beh, il risultato è un po' allarmante, dato che i ricercatori hanno sostenuto che hanno evidenziato che il numero di spermatozoi nei maschi occidentali è calato del 52%. Negli ultimi quattro decenni, in particolare in America del Nord, Europa, Australia e Nuova Zelanda. Commenteremo naturalmente questo studio con Andrea Salonia, che saluto e ringrazio perché è già qui in studio con me. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti, ciao Nico. Però Andrea, lavoreremo come sempre facciamo a Cuore Denari sull'informazione, che è la base della prevenzione, perché per invertire la situazione è importante superare i tabù, i timori. Cerchiamo di fare educazione, ma cerchiamo di fare un'educazione che dia modo a chi ci sta ascoltando di prendersi un po' la propria vita in mano e di farlo con grande soddisfazione e con grande piacere, perché la prevenzione ci aiuta a gustare la vita, non a togliere gusto alla nostra vita. A proposito di vita, molti dei problemi di fertilità derivano proprio da stili di vita non adeguati e noi li passeremo proprio in esame. E quindi vi daremo una sorta di specchietto di protezione per la fertilità. 800 24 00 24, Carmelo, partiamo! Come fly with me, let's fly away. If you can use. Allora Andrea, dato che sei qua e tu voli spesso, ti chiederei di fare un po' Deborah. Di deboreggiare un po', non hai baffi, però Deborah non ha i baffi ed è più alta. Comunque, tu voli spesso, chiediamo ai nostri amici se sono pronti a volare. Sicuramente tanti di coloro che sono all'ascolto si apprestano a prendere un aereo nei prossimi giorni per raggiungere la meta delle vacanze tanto attese e desiderate. Insomma, l'aereo ci porta in giro per il mondo in poche ore, possiamo scoprire luoghi spettacolari, ma proprio questo mezzo di trasporto talvolta può essere causa di disagi. che preferiremmo evitare, no? Quando siamo in ferie e vorremmo un po' concentrarci solo sul nostro relax. Allora, 800 24 00 24, raccontatemi se volerete, se avete già volato nell'estate 2017, se tutto è andato liscio come l'olio, se i bagagli sono arrivati con voi, se ve li hanno persi, se avete incontrato qualcuno di speciale. Si incontrano persone speciali. E magari è capitato anche a voi. Allora, 349-238-6666, noi oggi cerchiamo di fare il punto e vi ricordiamo quali sono le regole che ci tutelano. Torniamo a collegarci per questo con Lorenzo Asuni. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno alla nuova Debora. La nuova Debora, adesso Debora se ci sente, è country manager di Hair Help Italia. Dottor Asuni, voi non vi fermate mai, e neanche ad agosto immagino, questa è una stagione direi calda per voi, che per lavoro aiutate proprio i viaggiatori a chiedere ad esempio i rimborsi di cui hanno diritto quando qualcosa non va. Assolutamente, guarda Nicoletta, sostanzialmente ad agosto noi non molliamo, andiamo in ferie, ma raddoppiamo l'impegno, perché puoi immaginare come la maggior parte delle persone in questo periodo viaggio comunque prende un aereo per andare nelle destinazioni delle proprie vacanze. Allora, quindi noi sappiamo che abbiamo le, così, vogliamo sicuri, e se no subito una telefonata e ci sei. Allora, ci aiuta intanto con qualche dato a farci un'idea della quantità di persone che si metteranno in viaggio nei prossimi giorni, perché la fine di luglio è il vero momento dell'esodo, o sbaglio? Esattamente, sostanzialmente l'ultimo weekend di luglio, o il primo, comunque quello che va a coincidere col passaggio d'agosto, è il weekend, diciamo, dell'esodo estivo, e quindi sostanzialmente sono circa 34 milioni di persone che si metteranno in viaggio durante comunque l'estate, ma la maggior parte è durante questo periodo. Ecco, 34 milioni è un numero... Ti è andata sì, giù la voce, vedi? Allora, noi naturalmente... Pensa chi come il dottor Asuni si occupa di gestire anche tutte le varie difficoltà. Noi naturalmente speriamo e ve lo auguriamo che tutti viaggino regolarmente, senza disagi, ma sappiamo che dalla perfezione siamo lontani. Voi che cosa vi aspettate? Ad esempio l'anno scorso, quanti sono stati i viaggiatori che hanno subito dei disagi? So che avete anche provato un po' a quantificare i rimborsi di cui avrebbero diritto, e la cifra è impressionante. Oggi diamo i numeri. No, diamo proprio i numeri, perché è impressionante, visto comunque, diciamo, la mole, come ho detto prima, delle persone che si metteranno in viaggio. Ovviamente gli aeroporti dovranno avere un'operatività, chiaramente avrà sostenuto un'operatività diversa dalle solite medie, e quindi questo causa enormi disagi. Con AirHelp abbiamo cercato di verificare quali possono essere stati i disagi dello scorso anno e quantificare quelli che possono essere quelli dell'anno in corso. Ma l'anno scorso... Sì, no, scusi, l'anno scorso... No, certo, ad esempio sono stati in ritardo, cancellati, o comunque hanno perso la propria coincidenza circa più di 250.000 persone, di circa 265.000 persone, per un totale di 95 milioni di euro di risarcimenti dovuti. 95 milioni di euro. Una cifra incredibile. Ma senta, ma lei è capitato anche lei di trovarsi in mezzo a un problema prendendo fortunatamente l'aereo? Sì. Ah. O dipende, fortunatamente o sfortunatamente. Perché, sfortunato per chi l'ha incontrato. Esattamente. L'ha incontrata. Perché alla fine, essendo nello stesso volo di altre 150 persone, ho fatto utilizzare a tutte le persone AirHelp, che è abbastanza semplice in utilizzo, e quindi le persone più che scocciate dal ritardo erano sollevate di avere una soluzione così veloce immediatamente. Allora, vogliamo darla anche a chi ci sta ascoltando nel caso? Sì, sostanzialmente abbiamo creato un'applicazione e un sito web dove in 2 minuti di orologio si va su www.airhelp.com, si inserisce volo di partenza da destinazione e la compagnia aerea con la data del volo, e in circa 2 minuti si può verificare a quanto si ha diritto, 250 ai 600 euro ovviamente. Allora, Andrea, segnatela, perché tu voli spesso. Già segnata. Vero? Perché i medici volano, congressi. Un'altra cosa importante, a parte chiaramente i disagi che saranno quest'estate, è importante capire che il diritto è retroattivo di quasi fino a 3 anni. Quindi anche per voli effettuati fino a 3 anni fa, quindi magari 3 stati fa, si è avuto un problema, non si è fatto nulla, si è ancora in tempo per fare qualcosa. L'importante è ricordarsi tu. Sì, puoi parlare, Andrea. Posso fare una domanda? Anche se c'hai i baffi. Parleremo anche di baffi. Sì, ma questo vale anche per le compagnie low cost, per cui per voli acquistati a prezzi quantomeno morigerati? Assolutamente sì. Voli low cost, voli acquistati online, voli acquistati su siti specializzati di comparazione prezzi. Tutti questi voli hanno gli stessi diritti, perché è un diritto appunto europeo, della una regolamentazione europea che tutela i viaggiatori aerei in questo caso, stabilisce determinati risarcimenti a prescindere dal prezzo pagato il biglietto. Quindi se ho pagato il prezzo un euro, il risarcimento è sempre non meno di 250 e fino a 600. Ottimo. Allora, guardiamo un po' la situazione. Adesso ci sono ad esempio stati già episodi significativi di disagi. So che sabato scorso due voli EasyJet da Malta, diretti uno a Milano e l'altro a Palermo, tra l'altro con molti passeggeri minorenni, sono stati cancellati. Com'è andata, Suni? Come ci si muove soprattutto in casi come questo? Vai all'aeroporto, ti si cancella il volo e tu cosa fai? Diciamo che sembra fanno scalpore questi casi, ma sono all'ordine del giorno. In questo caso ha fatto diciamo clamore il fatto che ci fosse un gruppo, un folto gruppo di minorenni che sia stato sostanzialmente abbandonato a se stesso all'aeroporto di Malta in partenza per Milano, il ritorno da Malta per Milano. Questo è accaduto che EasyJet, in questo caso, che è il vettore che doveva effettuare la tratta, per problemi tecnici, organizzativi o comunque qualcosa di irriconducibile direttamente alla compagnia aerea, ha deciso di cancellare i voli senza riproteggere i passeggeri che sono rimasti in alcuni casi uno, due o tre giorni nella città, impedendo di tornare a lavoro, tornare dalle famiglie, tornare qualunque motivo, però no, immagino anche la preoccupazione dei genitori, perché minorenni lì, no? Esattamente. Ecco. Non ci dovrebbero essere delle tutele aggiuntive in questo caso? No, esistono delle tutele forti, nel senso che la compagnia aerea dovrebbe garantire a tutti i passeggeri che non sono in grado o che non sono stati in grado di prendere il volo un posto dove alloggiare, dei pasti, tutta una serie di tutele che comunque devono far sentire in sicurezza il passeggero avendo acquistato un determinato servizio. E invece questo come è andato? E invece questo è assolutamente accaduto, perché sono stati abbandonati a loro stessi, hanno ricevuto una comunicazione breve dalla compagnia aerea che li avrebbe poi riprotetti senza un giorno sicuro, senza una data certa, che li avrebbe riprotetti eventualmente su un altro volo. Poi la cosa ha fatto clamore, EasyJet si è scusata e ha detto che in un futuro risarcirà o opererà. Ecco, infatti, se c'eravate anche voi tra questi passeggeri 800240024, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. E poi ritorniamo subito dopo insieme e vi aspetto. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Cuore e denari. Domenica d'agosto, che caldo fa. La spiaggia un girarrosto non servirà. Intanto il nostro amico Suni è volato, ha preso il volo, anzi è caduto, si dice da noi, perché ma lo recupereremo, che così ci darà nel corso magari della nostra trasmissione le ultime indicazioni per partire, tranquilli di sapere che nel caso qualcosa andasse storto, possiamo, che cosa dobbiamo fare? C'è? Suni era volato o era caduto? No, sono volato. Allora, prima di volare via, due minuti, raccomandazioni, di nuovo il sito, che cosa dobbiamo fare, non si perde la pazienza, possiamo essere risarciti fino a 3 anni fa, no? Cioè è retroattivo di 3 anni. Esattamente. Due indicazioni rapide, perché poi andiamo stiamo ad agosto, ma cerchiamo la persona che magari, se il disagio capita in casa, deve riparare qualche cosa. Allora... dai voli passiamo agli artigiani. Ok, guarda Nicoletta, la cosa principale è che quando, ogni volta che si prenderà un aereo, ma oggi come in futuro, è sapere che siano delle tutele. Sì. Queste tutele sono garantite per legge, non è una legge come al solito viene applicata un po' all'italiana, ma è una legge europea, e quindi questa legge viene applicata in modo rigoroso e noi aiutiamo a farla applicare in modo rigoroso. Allora, ripetiamo il sito e poi la salutiamo. Esatto, www.airhelp.it per ogni problema, oggi e in futuro, consigliatelo e utilizzatelo. Grazie, buone Grazie. Vacanze e buoni voli. Buona vacanza a voi. Allora, agosto è alle porte, come ogni anno ci si divide, vale sicuramente anche per i nostri ascoltatori, tra chi prepara le valigie e chi si prepara invece a trascorrere queste settimane estive rimanendo a casa. Noi che viviamo in città spesso apprezziamo, no? La calma di agosto, il silenzio, la città è tutta tua, il parcheggio che si trova più facilmente. Rimanere in città nel mese di agosto, però lo sappiamo, ha anche qualche aspetto negativo, critico. Per la salute a causa del caldo, ma anche per i denari. Ci sono però anche più pericoli e qualche disagio in agguato, soprattutto per chi si trova da solo, prima fra tutte, lo ricordiamo spesso, le persone anziane. E poi ci sono gli imprevisti in casa. Ad agosto è un classico, no? Il tubo che si rompe, il condizionatore che smette improvvisamente di funzionare, oppure ci si rimane chiusi fuori di casa lasciando le chiavi dentro e non ci sono gli amici, i parenti, nei dintorni che possono aiutarci. Allora dobbiamo rivolgerci, gioco forza, ad un professionista. Ma sappiamo bene che il mese di agosto potrebbe portarci incontri poco piacevoli con sedicenti professionisti che poi non si rivelano tali. E allora noi ne parliamo con Michelangelo Melchionno, presidente del CNA di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Oggi una puntata in cui, presidente, mettiamo le mani avanti. Prima volavamo e abbiamo detto se capitasse qualche disagio, qualche ritardo, che fare. E invece con lei parliamo di quelle situazioni poco piacevoli in cui ci si può trovare nel mese di agosto, e come quella di dover gestire un imprevisto che non riusciamo a risolvere da soli. Un guasto all'auto, un tubo che perde, rimanere chiusi fuori a casa, la lista è molto lunga. Situazioni in cui normalmente ricorreremo ad un professionista di fiducia, il nostro idraulico, l'elettricista, ma se lui è in vacanza, che fare? In questi casi, insomma, si cerca un po' a caso, si prende la prima persona disponibile, eccolo, qualcuno la sta chiamando, e poi però, insomma, può andar bene, può anche andar male. Che cosa dobbiamo fare per evitare di rischiare? Beh, intanto evitare di chiamare la prima persona a caso. Noi della CNA di Roma, ma anche altre CNA territoriali nelle grandi città, nell'approssimarsi della vacanza estiva nel mese di agosto, chiediamo ai nostri associati, imprenditori, artigiani, commercianti che sono disponibili a dare un servizio di apertura durante le festività agostane, di dare la loro disponibilità. Raccogliamo queste disponibilità in alcuni elenchi che in qualche modo garantiscono il cittadino da spiacevoli sorprese, e quindi in questi elenchi abbiamo gli installatori, l'elettricista, l'idraulico, il falegname, insomma il gommista, l'autoriparatore, che può aiutare il cittadino nel momento del bisogno quando il proprio artigiano di fiducia non è disponibile. Senta, vuole rispondere al telefono? No, non si preoccupa. No, perché magari si preoccupano, dicono dove è andato Melchionno, e Melchionno è Radio 24 e parla a cuore denari. Senta, la vostra iniziativa tra l'altro si chiama Artigiani, Commercianti e Servizi Aperti ad Agosto, proprio, sì. Proprio bella chiara, così. Bella chiara, ecco, chiara. Perché... Cioè, raccogliamo le disponibilità degli artigiani e quindi facciamo un servizio di tramite tra le richieste dei cittadini e i nostri artigiani che sono disponibili a fornire questi servizi nel periodo di agosto. Ecco, io cito la vostra, ma non siete naturalmente gli unici, ci sono per fortuna delle iniziative analoghe in tutto il territorio, e ci si informa presso il proprio comune. Sì, tra l'altro noi della CNA di Roma abbiamo fatto una convenzione con il Comune di Roma, quindi gli elenchi degli associati, degli artigiani si trovano sia sulle nostre app MyCNA o sul nostro sito www.cnaroma.it, ma oppure direttamente al centralino del Comune di Roma 060606, e quindi qualsiasi cittadino trova il modo migliore per raggiungere questo tipo di informazione. Ecco, noi contattiamo questo professionista, ecco, e quali sono le precauzioni e le attenzioni che dobbiamo prendere? Ad esempio, fargli valutare il lavoro e chiedere un preventivo prima di affidarglielo, mi sembra. Beh, solitamente si fa così. Sempre un preventivo di massima per realizzare, insomma, quello che è. Senta, mi dice chi la sta chiamando? Proviamo a rispondere. Non lo so. Gli parlo io a questo signore. Allora, insomma, farsi fare un preventivo di massima è sempre ottima prassi, ma questo vale sempre, soprattutto nel periodo di agosto dove non c'è il proprio artigiano di fiducia. Certo. Però ripeto, noi il fatto che siano gli artigiani, gli imprenditori che si inseriscono in questi elenchi, abbiamo anche un sistema di controllo. Nel caso in cui ci fossero dei problemi e il cittadino ce lo segnala, logicamente faremo un minimo di indagine per capire cosa è successo, e questo artigiano nel prossimo giro sarà escluso. Se la vede brutta. Sì. No, noi ci teniamo, la CNA in nazionale, insomma, gli artigiani solitamente cercano di dare dei servizi, cercano di fare il lavoro e come dire, dare la fiducia a chi si rivolge a noi. Allora, io vorrei anche ricordare che sul vostro sito avete preparato un vademecum con dei consigli di buon senso per le persone che chiudono casa e partono per le vacanze, no? Perché le raccomandazioni in questi casi non bastano mai, però poi alla fine bisogna anche partire un po' sereni, perché se sei tutta la vacanza angosciato di quello che ti può capitare a casa, che dice il presidente? No, insomma, prima di tutto partire sereni, perché altrimenti non è una vacanza. Però ci sono dei piccoli accorgimenti che possono in qualche modo dare maggiore serenità a chi parte, ma sono i consigli classici, insomma, quello di chiudere per esempio la conduttura dell'acqua principale, in modo da evitare che se ci fossero sbalzi di pressione oppure se si rompe un tubo un po' creare gravi danni, se è possibile staccare la televisione, il gas, la conduttura principale del gas. Adesso nei nuovi impianti elettrici delle abitazioni ci sono delle linee dedicate, nel senso che se ho l'irrigatore o l'impianto d'allarme allacciato ad una linea, posso distaccare le altre linee in modo da avere meno tensione all'interno dell'appartamento. Chiudere le ante degli armadi è una cosa banale, ma se si parte per un mese intero e le ante degli armadi sono aperti, si svirgolano. Possono creare grossi problemi agli armadi, sì. Sì, perché poi non si chiudono bene, quindi chiudete gli armadi e svuotate il freezer. Certo. Possiamo dire anche quello, perché se poi salta se dimentichi delle cose in frigorifero, al ritorno alla tua casa veramente ti accoglie con un odore terribile. Oddio, quelli però sono consigli molto semplici, no? Che debbono essere dati immediatamente. Allora, buone vacanze anche a lei, al signore che la stava chiamando. Okay, da parte nostra, okay. Buona giornata. Grazie, buona vacanza a tutti. Allora, prima di dare la linea al nostro GR, passare a Salute Uomo, una notizia che riguarda le donne. Si sono aperte le iscrizioni al premio Gamma Donna, il riconoscimento che è riservato all'imprenditoria innovativa di giovani e donne. Ci spiega tutto Valentina Parenti, socio fondatrice di Gamma Donna. Buongiorno Valentina e benvenuta. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per il collegamento. Grazie, ci spiega chi può partecipare e come può farlo? Allora, il premio Gamma Donna è un premio che nel corso degli anni ha portato alla ribalta delle storie di innovazione e talento poco conosciute, ma non per questo meno cariche di valore. È destinato a imprenditrici di ogni età e a giovani imprenditori sotto i 35 anni che abbiano fatto innovazione nella propria azienda. L'unica condizione è che l'impresa sia nata entro il 31 dicembre del 2014. Sì. Dove troviamo tutte queste informazioni? Quindi donne di tutte le età, per i maschi sotto i 35 anni. Sì, ecco. Sì, sono donne giovani. Tutte le informazioni sono sul nostro sito www.gammaforum.it, sì. E dove si troverà anche un video che abbiamo registrato, che ovviamente in radio non possiamo vedere, ma che è molto carino, che spiega passo per passo come fare a candidarsi e che cosa si vince. È un premio, secondo noi, molto ricco di opportunità, perché anche soltanto partecipando ci si porta a casa la possibilità di avere la propria storia di innovazione nella sezione L'Italia che innova del sito, l'ingresso gratuito all'evento nazionale che terremo al Sole 24 Ore il 16 novembre prossimo, e quindi anche l'opportunità di fare networking con altri imprenditori e imprenditrici, incontrare investitori e, insomma, accelerare, dare un'accelerata al proprio business. Mi sembra che siano assolutamente delle motivazioni che dovrebbero invitare e spingere le donne imprenditrici all'ascolto e i giovani imprenditori sotto i 35 anni di partecipare a questo premio Gamma Donna, di cui mettiamo naturalmente tutte le indicazioni sulle pagine di Cuore Denari. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Cuore e denari. Più che parole d'amore, Andrea Salogna, che è il direttore scientifico di questo progetto di Cuore Denari che si chiama Salute Uomo, commenta i dati e i risultati delle ricerche, lo faremo anche per questo maxi studio di Gerusalemme, ma soprattutto fa un'informazione, ci aiuta a fare un'informazione autorevole come quella del Sole 24 Ore, ma divulgativa, che arrivi, io dico, al cuore e nella testa delle persone, motivandole ad adottare uno stile di vita che li aiuti a stare bene e a sentirsi bene. Questo è un po' l'obiettivo dello spazio dedicato alla salute. Andrea, intanto partiamo da questo studio di Gerusalemme. Posso fare un'anticipazione in realtà? Sì. Posso partire da un pochino prima, da quello che hai detto all'inizio. Io sono fortemente dispiaciuto del fatto che Cuore Denari termini in questa formula e devo ringraziare Nicoletta in primis e Deborah subito dopo per questi 3 anni meravigliosi che abbiamo passato insieme, attraverso i quali abbiamo sdoganato, e questo è un termine che abbiamo probabilmente utilizzato per la prima volta qui, e quindi abbiamo sdoganato termini e concetti legati alla salute al maschile che verosimilmente nessuno prima aveva sdoganato in una trasmissione dedicata al pubblico laico. Abbiamo fatto informazione al pubblico laico, appunto, abbiamo utilizzato il concetto di prevenzione, di diagnosi, di terapia, sempre con garbo e al maschile. Tanti ci hanno copiati, è diciamolo. Ci saranno numerose imitazioni. Ci saranno altre belle opportunità, ma mi chi piace... lo sa, ma sì. Comunque fino adesso quello che abbiamo fatto, siamo contenti di averlo fatto con voi cuore. E per voi. Allora, quindi grazie. Grazie. Commentiamo invece la notizia apparsa e un po' ripresa su tutti i quotidiani e non solo. Però niente di nuovo. Infatti è uno studio meta-analitico. Meta-analitico vuol dire che sono stati considerati i dati già riportati da centinaia di altri studi su una popolazione, cioè su una coorte, su un numero di uomini superiore a 40.000, che nell'arco di questi ultimi 40 anni sono stati studiati per numero di spermatozoi. Il dato che si evince da questa analisi è duplice: più del 52% di riduzione in termini di concentrazione degli spermatozoi, che vuol dire numero di spermatozoi per millilitro, e quasi il 58% come numero assoluto. Il dato non è nuovo, se solo pensaste che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ogni 10 anni dà dei parametri di normalità, dal 99 al 2009 più o meno ci ha detto: ragazzi, il numero di spermatozoi era normale quando almeno 20 milioni di spermatozoi erano presenti per millilitro di liquido seminale, oggi ne bastano 15 milioni. Questo non perché fondamentalmente ne bastino oggi 15 ed erano 20, ma perché, ahimè, c'è nel vero senso della parola una riduzione della concentrazione degli spermatozoi. Quindi spermatozoi sono in minore quantità e anche di peggiore qualità. Sono un po' addormentati. Non solo, sono di forma alterata, sono addormentati e si muovono meno. Un altro parametro... Mi sono diventati sedentari anche gli spermatozoi. E non per altro, noi abbiamo spesso sottolineato l'importanza del fitness inteso come attività fisica regolare. Ricorderete come la Società Italiana di Andrologia sottolinea la sua famosa Passi App, che non è altro se non quantifichiamo il numero dei nostri passi giornalieri. Perché se ti muovi si muovono anche gli spermatozoi? Assolutamente, dai. Sì. I dati legati all'attività fisica regolare ci dicono che negli uomini che facciano attività fisica regolare, che non vuol dire un eccesso di attività fisica, ma un'attività fisica regolare, hanno performance riproduttive migliori. Sono delicati questi spermatozoi, sembrano proprio delle signorine, eh? Beh, ragazzi, sono ciò il che il caldo più... non lo vogliono, no. Se non ti muovi si sdraiano, se ti muovi troppo non beh, va non bene. Solo, mettiamoci ancora dell'altro, se mangiamo male non vanno bene, se facciamo qualcosa che è scorretto, le abitudini recreazionali sono indubbiamente nemico degli spermatozoi. Tra queste, in primo luogo il fumo di sigaretta. In secondo luogo, quelle che sono le cosiddette sostanze ricreative, gli stupefacenti per essere chiari. In terzo luogo ci sono tutti quegli eccessi che vanno dagli alcolici in eccesso fino a sostanze eccedenti nell'alimentazione, i grassi ad esempio, perché tutti questi alimenti sono potenzialmente nocivi per la qualità degli spermatozoi. Punto. Punto. Però... il fatto che ormai siamo quasi a rischio di estinzione. No, così non mi la sembra farei così no, grande, mi sembra dai. Mi sembra eccessivo. L'ho commentato anche in una recente intervista. In realtà però no, ti ho letto, Però bisogna dire questo. Tu non questo. Devi parlare con nessuno. Nessuno, esattamente. Io ero a presentare il mio romanzo da un'altra parte, mi hanno chiamato. No, la cosa importante è che ahimè questo è il dato significativo. 7 uomini su 100 in Italia, non stiamo parlando di altra nazione, sono infertili. E questa è una prevalenza che ha quasi dell'epidemico. Cioè il numero di uomini che hanno difficoltà riproduttive e che i genitori non diventeranno, se non a costo di grandi sacrifici, ahimè è un numero in aumento. E tutto quello che è a corollario di questa condizione può aiutare a migliorare le capacità riproduttive, fondamentalmente a mio avviso va sottolineato. Il dato israeliano è un dato rilevante, ma esprime una condizione tipica del nord del mondo, perché tutti gli studi relativi al sud del mondo, ahimè, o non sono qualitativamente così validi, oppure non esprimono questo tipo di andamento. Allora, hai già anticipato, ma ci torneremo, quanto lo stile di vita possa influenzare la salute degli spermatozoi. E per salute intendo il numero e la qualità e anche la loro attività, perché dovete averli di numero, sì, di qualità giusta e anche un po' vivaci. Su. Oggi poi un po' di quel che ci vuole, come diceva mia esattamente, nonna. Esattamente, ecco. No, questa cosa della tua nonna è estremamente utile, perché le nonne hanno sempre ragione e la saggezza degli antichi, a mio avviso, va sempre presa in considerazione. E avevano degli uomini differenti a quei tempi. Beh, anche no? Le donne erano, sì, differenti. Sì, no, no, ma però... nel senso che progressivamente negli ultimi 50 anni, assolutamente, però, insomma, anche pochi, l'importante che servano. Sì, non dimentichiamoci che è cambiata anche l'abitudine sociodemografica, cioè la possibilità che oggi arrivino coppie sempre più anziane a richiedere di avere un figliolo e dico richiedere perché spesso arrivano in centri che si occupano di medicina della riproduzione, ahimè è un dato evidente. Se pensate che solo negli ultimi 15 anni c'è stato un incremento che la statistica dice essere significativo, per cui 10 anni fa, 15 anni fa si arrivava a 30 anni medi, oggi quasi sono 38 questi anni, certo. Soprattutto tutti pensano che sia solo il dato femminile ad essere importante, in realtà ma anche il dato maschile. Allora, senti un po', Ennio ci fa una domanda giustissima dicendo: cara Nicoletta, perché mai la qualità degli spermatozoi di un tempo era migliore che la ginnastica non esisteva? Beh, non esisteva, però magari l'attività sì, l'attività era proprio diversa. Ecco, si muoveva molto di più. E poi, comunque, caro Ennio, io credo che non sia solamente un fattore che fa la differenza, ma Andrea Salogno ci ha parlato di stile di vita in generale, in cui sicuramente l'alimentazione, e ne parleremo, perché c'è una dieta che protegge comunque la fertilità maschile, credo femminile, in cui ci sono i dati. Ancora una volta, non ci sono alimenti miracolosi, non c'è l'alimento, il pomodoro piuttosto che il minerale che pam rinvigorisce gli spermatozoi, ma c'è un mix di sostanze di cui parleremo e che vi spiegheremo per bene. Ma Andrea, oltre allo stile di vita c'è anche una prevenzione che non viene fatta, molti problemi di fertilità, e questo lo dico ai genitori all'ascolto, perché uno si riconosce infertile quando vuole diventare padre. Esatto. E se ne accorge, non penso che un uomo così vada a misurare la qualità del liquido seminale così tanto per vedere com'è. È molto molto difficile che lo faccia, ecco, assolutamente. Non è sì. da indicare. Ci sono, e lo dico ai genitori di ragazzini a cui abbiamo dedicato tante puntate, ci sono dei passaggi, delle attenzioni, delle precauzioni che dobbiamo adottare per far sì che lo sviluppo del nostro ragazzo gli permetta di diventare, di preservare la sua fertilità. Rapidamente, proprio a scheda, Andrea. Parto da questo per poi tornare a una cosa che sì. hai appena detto, che secondo me è importante. La prima delle considerazioni da fare è: controllate che i testicoli dei vostri bambini siano nel posto giusto non appena questi sono nati. Cioè il cosiddetto criptorchidismo, che è una patologia per cui i testicoli risultano ritenuti all'interno del corpo, deve essere immediatamente individuato e quanto prima trattato. Cioè i testicoli devono essere riportati nella borsa scrotale perché abbiano le loro condizioni ambientali più corrette. In secondo luogo, controllate sempre, ne abbiamo parlato tante volte, controllate sempre che i ragazzi abbiano o non abbiano varicocele, cioè una dilatazione delle vene sopra il testicolo, soprattutto di sinistra, per motivi anatomici, condizionante alterazione della qualità del liquido seminale stesso, che nei soggetti minorenni può essere studiato soprattutto controllando il volume del testicolo, tendenzialmente più piccolo. Un altro elemento importante per la prevenzione, soprattutto in epoca peri-adolescenziale, l'anno scorso proprio in questo periodo ne avevamo parlato, primi rapporti sessuali, attenzione al rischio di malattie sessualmente trasmesse. Che gli uomini contraggono più facilmente di quanto non contraggono le donne. Sì, sebbene le ragazzine che cominciano ad avere rapporti abbiano più frequentemente con le cosiddette infezioni delle vie urinarie non complesse, non complicate, cioè le cistiti post-coitali, post-rapporti. Le malattie sessualmente trasmesse sono importanti, non dimentichiamocelo, e non dimentichiamo mai che non parliamo solo di HIV e di AIDS, quello è, se vogliamo, l'ultimo degli spauracchi, ma ce ne sono moltissime a livello dei genitali, a partire dal mollusco contagioso, la clamidia, l'ureaplasma, il tricomonas, la Neisseria gonorrea, cioè lo scolo dei nostri nonni che è ritornato a gran ribalta. Tutto questo viene protetto da un punto di vista dei rapporti grazie all'uso del profilattico, che non viene solo suggerito a scopo anticoncezionale, certo, come invece ahimè si ritiene possa essere, ma ha una capacità di protezione perché è un mezzo contraccettivo di barriera. Questi tre elementi sono già sufficienti. Allora Andrea, un ascoltatore dice sì, però gli adolescenti non si fanno vedere dai genitori. No. È vero, cioè è difficile, anzi arriva a un'età in cui si chiudono addirittura in bagno, sì, ma bisogna rispettare è fondamentale il ruolo del medico di base, del pediatra fino ai 16 anni. 16 anni. Però anche lì bisogna coltivare una relazione, perché se non si fa vedere dalla mamma, immagino che sia difficile che un ragazzino di 15 anni vada dal medico e si faccia visitare. In questo caso è fondamentale il rapporto col padre, perché il papà ha spesso maggior dimestichezza a parlare della genitalità al maschile più di quanto non l'abbia la mamma. Non è sempre vero, ma è estremamente importante. Ma in questo senso gli aspetti di prevenzione passano attraverso gli aspetti educativi, perché è importante che il ragazzo adolescente abbia nozioni, abbia carte sufficienti per poter decidere, coadiuvato dai suoi genitori e dal mondo scolastico, di farsi valutare qualora ce ne sia bisogno. Infatti un amico ci scrive: la visita di leva non c'è più, e allora perché non programmare visita doc? Lo suggeriamo al ministro Lorenzin. Sì, però sì, oggi è stato finalmente approvato il decreto vaccini, ci sono ancora 147 no in Senato. Cosa volete che si vada a suggerire al ministro Lorenzin, poveretta anche lei, di andare a favorire una visita costante nei maschietti se ad oggi esistono ancora reticenze così forti? Allora, nel frattempo pensiamoci noi, e quindi sì, ecco, e quindi adesso che sono suggerimenti pratici, ma utili. I nostri ragazzi partono, facciamogli un discorso molto chiaro, sì. Non per fargli vivere la sessualità con ansia, no. O come qualche cosa che può ammalare, ma assolutamente una sessualità sana. Sana, questo è fondamentale, si parla proprio di salute sessuale. I due sessuale. Partner, perché, assolutamente, ecco. Sì. Allora, abbiamo detto che a minacciare la fertilità maschile ci sono anche gli stili di vita, fumo, alcol, uso di droghe, ma anche un'alimentazione che non è equilibrata e quindi responsabile anche a sua volta di una variazione di peso importante rispetto a quello del peso forma. Il sovrappeso non è amico della fertilità, ma ho letto anche di uno studio che dice che anche gli uomini sottopeso, certo, possono avere gli stessi rischi. Andrea, è così, pensate che i dati sostengono che addirittura il peso al momento della nascita sarà prodromico e sarà indicativo di come sarà la salute tutta dell'individuo, ivi compreso la salute riproduttiva. Quelli che nascono come bimbi di peso basso alla nascita, ritenuto tale, ci sono ormai statistiche in tutto il mondo, saranno probabilmente uomini nell'età riproduttiva un po' meno capaci di diventare papà di quanto non siano soggetti nati normopeso. L'altro dato importante, oggi se solo considerassimo i due estremi della nostra curva, cioè quelli che sono al di sotto dei 18 di BMI, che vuol dire soggetti magri e troppo magri per la loro altezza, il loro status fisico, il loro fenotipo, oppure quelli troppo grassi, che vuol dire sopra i 30 di BMI, ebbene questi due estremi hanno maggiore difficoltà riproduttive. Allora commentiamo anche, ringrazio Marco che mi dà la possibilità di mettere due puntini sulle i. Allora, ho un varicocele di secondo grado. Ho avuto un testicolo trattenuto fino ai 14 anni, che poi è sceso da sole. Sono papà di due gemelle e noi siamo molto contenti. Allora, che bello, la medicina questo, è quanto, ecco, quanto meno democratica questo, si possa dire. Questo è, ci sono delle persone, tu hai detto il varicocele può sì. essere una causa di riduzione di fertilità, sì. Quindi può produrre infertilità. La stessa cosa più o meno mi raccontano quando alcuni ascoltatori quando parliamo di fumo, cioè sì. quando noi parliamo di possibilità di rischio, di fattori di rischio eccetera, ci sono milioni di persone che dicono ma io ho fumato tutta la vita, il mio nonno ha fumato fino a 99 anni e non gli è venuto niente, io ho avuto il varicocele, ho avuto dei figli, ma benissimo, benissimo, però poi la medicina lavora su dei numeri, allora... Noi ci sentiamo di dire che ai genitori all'ascolto, ma non perché lo dice Andrea Salonia, no, e né tantomeno Nicoletta Carbone che non vale nulla, ma proprio perché gli studi dicono il varicocele, attenzione, potrebbe. Poi uno dice, il mio zio ce l'ha e ha 8 figli e io il varicocele non glielo guardo, va benissimo così. È assolutamente vero, ma diamo due numeri, forse li abbiamo già dati in trasmissioni pregresse, ma il 15% della popolazione maschile ha un varicocele. Qual è la percentuale nei soggetti infertili? Tre volte tanto, il 45%. Basta, forse dei numeri ci sono. Poi... È ovvio che esiste una predisposizione. Il fumo di sigaretta, non diamo numeri, diamo solo una spiegazione banale. Oggi tra tanti parametri che si considerano dello stato di salute degli spermatozoi si considera un parametro piuttosto importante che è descritto come indice di frammentazione del DNA degli spermatozoi. Che nome l'esempio, difficile. Difficilissimo, io mi raccomando. Ma per dirvi, fate l'esempio più banale, un filo elettrico rivestito di nastro isolante. Se è ben rivestito, probabilmente condurrà le sue informazioni, cioè la corrente, in modo adeguato. Se questo nastro isolante fosse solo frammentariamente posto a rivestire il nostro filo elettrico, quella conduzione sarà meno valida. È esattamente la stessa cosa. I miei spermatozoi, quando portano informazioni che sono frammentate, lo fanno attraverso il loro DNA, ebbene danno minor probabilità di capacità riproduttiva. Questo che cosa vuol dire? Che tutte quelle che sono spine irritative, potenziali fattori, che il numero di frammentazioni andranno ad aumentarlo, il fumo in primo luogo, ebbene saranno potenziali disruptors, cioè distruttori o diciamo interferente rispetto alla capacità riproduttiva. Perfetto, allora questo è chiaro, almeno ci sembra chiaro, se no scriveteci, chiamateci, protestate. Sì. Io mi siederei a tavola perché sì. Abbiamo detto che sono molto delicati, che hanno tutti i loro gusti, ma hanno anche dei gusti a tavola gli spermatozoi. Sì. C'è una dieta che è stata studiata, analizzata, non è fatta di alimenti magici, non c'è l'alimento, ma è un mix di sostanze che aiuterebbero a migliorare la qualità. qualità del liquido seminale. È una dieta che tutti noi conosciamo bene perché è in pratica la dieta mediterranea. Andrea. Questo è estremamente chiaro. Se al di là del dato israeliano appena pubblicato, che è una meta-analisi, consideraste la letteratura scientifica degli ultimi 15 anni con attenzione, vi rendereste conto che i primi paesi nei quali si è osservata una riduzione quantitativa del numero di spermatozoi sono i paesi scandinavi, dove la dieta mediterranea è lungi dall'essere considerata. In Italia, in Spagna e in Grecia questo numero non si era mai dimostrato decrescere. In realtà, come ben dicevi Nicoletta, non c'è l'alimento magico, come non c'è l'alimento afrodisiaco. È il connubio, è l'armonia, è l'equilibrio tra i diversi componenti della dieta. Paradossalmente, la frutta, la verdura... Dimmele bene allora, frutta, perché io ho un amico che ci sente. Attenzione, mi sento un po' a disagio. Frutta e verdura, e tra i vegetali, i vari legumi hanno particolare importanza. L'olio, i formaggi, sì, attenzione però non eccediamone, e tra i formaggi, quelli che ben conosciamo senza fare pubblicità, il parmigiano piuttosto che le mozzarelle. Un altro aspetto importante, è indiscutibile il fatto che l'eccesso di proteine di origine animale possa essere lesivo, ma i dati sembrano dimostrare come non esista differenza, ad esempio, tra le carni rosse e le carni bianche in termini di capacità riproduttiva. Fatto altro quello legato all'oncologia dei maschi e delle femmine, ma in termini riproduttivi. Le uova, anche qui, hanno grande importanza. Questo cosa vuol dire? Che è il connubio, torno a dire ancora una volta, è il compendio e l'armonia di tutti questi elementi che, bene equilibrati tra loro, associati a un'attività fisica regolare e a un non eccesso di fattori ricreazionali, un non eccedere in caffè, un non eccedere in alcol, l'abolire il fumo di sigaretta, l'abolire gli stupefacenti, possano favorire il tutto. La condizione di anoressia, cioè la condizione di uomo maschio, che è poco studiato, ahimè, perché si pensa che l'anoressia sia tipicamente femminile, è deleteria se pensate che l'anoressia va di suo ad alterare quell'equilibrio ormonale prima di tutto il resto, che è responsabile dello stimolo a carico dei testicoli per produrre sia testosterone, condizione endocrina, che spermatozoi, condizione esocrina. Allora, abbiamo detto tutto, soprattutto Andrea Salonia ha sottolineato quali sono gli ingredienti della dieta che protegge la fertilità. Possiamo chiamarla così? Sì. Frutta, verdura, legumi, li mettiamo. Equilibrio di carne, equilibrio di senza particolare attenzione all'una all'altra, pesce. Uova e pesce. Ok, ha sentito tutto il mio amico Andrea Ribaldone, che è uno chef dell'Osteria Arborina della Morra di Cuneo. Ciao Andrea, che l'abbiamo ripescato perché lo vogliamo far lavorare per noi. Dovevamo andare a trovarlo anche. Sì, Andrea. Ciao Nico, ciao Andrea. Vi ciao. Ho ascoltato con molta attenzione. Vedi? Sono proprio in cucina qua alla Morra, qua a Osteria Arborina, e voglio provare a pensare due piatti semplici per tutti che ricalchino le vostre indicazioni. Bravo, quindi da Andrea Ribaldone il piatto della fertilità, va bene? Ci piace. Bellissimo. Poi lo postiamo. Speriamo. Sì, poi lo postiamo, poi incrociamo le dita, poi adesso, poi bisogna anche così. De gustibus peraltro, eh? Sì, de gustibus, ecco. E poi bisogna comunque anche un po' praticare. Sì. Ecco, su quello io non posso darvi degli altri dei consigli, però la frequenza, è un consiglio, eh? No, anche perché, poi Andrea me lo dirai, di solito in estate si è più rilassati, ci si frequenta di più. Beh, non peraltro nascono, la tarda primavera, che era detto il mese di Maria, vi ricordate, il mese di maggio, il numero di nascite è superiore. Quindi ragazzi, magari poi le chiamano di secondo nome Nicolina, perché ho portato buono. Andrea, ti lascio lavorare e per noi andiamo, Carmelo, è quasi l'ora dei mercati, li facciamo 29, sì, andiamo, per carità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore. Belli o brutti, in vacanza alla fine vanno tutti, anche se per pochi giorni. Io naturalmente ve lo auguro di cuore. E Andrea, come dicevamo, a proposito di fertilità, durante le vacanze può succedere che si realizzi il progetto che molte coppie hanno a cuore o stanno accarezzando. La notte porta consiglio, l'estate e la vacanza portano il bebè. Che dici? È fondamentale, anche perché ricordatevi che nei centri di procreazione medicalmente assistita, tanto vituperati, arrivano tantissime coppie afferenti a quelli che si chiamano matrimoni bianchi, cioè quei matrimoni che mai hanno avuto rapporti, e quindi le coppie arrivano cercando un percorso di fecondazione assistita senza aver mai praticato. In questi casi è fondamentale che ci sia quello che si chiama counseling psicologico, cioè un supporto alla coppia, ad entrambi i partner, in modo tale che venga dato loro ascolto da un lato e aiuto dall'altro. Certo. È fondamentale, è inevitabile. Allora, potevamo non occuparci del nostro uomo bello e impossibile che va in vacanza? Voi amici, parlo agli uomini, ma parlo anche alle mie amiche che stanno vedendo il loro uomo, il loro compagno, il fratello che si sta un po' preparando, magari non lo dice, ma sta facendo anche lui i preparativi per le ferie. E allora anche noi vogliamo essere con voi e abbiamo chiesto ad un grande amico della trasmissione e soprattutto ad un grande esperto di venire a trovarci oggi. Abbiamo in linea il professor Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis, gruppo ospedaliero San Donato. Buongiorno. Buongiorno, buona estate a tutti. Buona estate a tutti, anche gli uomini si preparano e... Dopo aver usato spesso di nascosto le nostre creme, adesso ci rubano strisce, creme depilatorie. Alcuni hanno maturato davvero una preparazione sulle cerette calde, fredde, al miele, brasiliana, perché ad alcuni piace glabro, dico il torace, e molti le gambe le preferiscono lisce. C'è chi ha pensato, ci ha pensato per tempo e quindi ha scelto di epilarsi con il laser, ad esempio anche la schiena. Ma per chi, professor Di Pietro, invece i peli li ha ancora lì, tutti attaccati e affezionati, decide invece di sfoggiare un torace glabro al mare perché così si vede meglio il muscolo oppure diventa più abbronzato e lucido, che cosa possiamo consigliare? Beh, non ci sono alternative ai metodi che già utilizzano anche le nostre compagne e quindi le nostre ragazze, mogli o fidanzate. Vale a dire, se vogliamo eliminare velocemente e anche in modo efficace, insomma, ecco, che ci sia un buon risultato, dobbiamo ricorrere alla classica ceretta oppure alle strisce depilatorie a strappo. A meno che si voglia utilizzare la classica, la lametta, che è sempre utile anch'essa. La soluzione va scelta secondo se vogliamo un risultato che possa durare una settimana, 15 giorni, nel caso della ceretta o dello strappo, o invece 24-48 ore. Con rasoio. Che poi il rasoio. Ecco, il pelo nel maschio cresce molto più velocemente, poi anche più grosso, quindi se viene rasato dopo 24 ore, 48 ore, insomma, bisogna ripetere l'operazione. Per belli apparire un po' si deve soffrire, perché io ho visto delle schiene pelose che mi è venuto in mente che se mai dovessero togliere tutti quei peli con la ceretta, che dolore, professor Di Pietro. Sì, io non oso immaginare, anche perché non ho mai voluto provare, quindi... Mamma mia, quasi da svenire. Non è una passeggiata. Non è una passeggiata. Non è una passeggiata per un maschio dove il pelo è piuttosto grosso, di conseguenza anche le terminazioni nervose, no, che poi sono collegate al bulbo, quando vengono strappate, direi che il dolore è molto macio, nel senso che il dolore deve essere allora una bella esperienza. Oi, va bene. Si vuole, può si farlo. Vuole, ecco, magari sono le compagne che dicono, ma tutti quei peli che escono dal... Va bene, siete voi che costringete il vostro uomo a sottoporsi a questa piccola tortura? Siete un po' sadiche. 800 24 00 24, no, tra il serio e il faceto parliamo anche di questi temi a salute uomo, perché il prendersi cura di sé è importante, è anche un passaggio del, così, dell'organizzare, nell'organizzare una condizione di benessere. Professor Di Pietro, di pelo in pelo arriviamo alla barba, che è stata un po', no, trend di quest'anno. Sì. E in estate immagino richieda qualche cura in più, perché... Sì. Su, ma, si suda, fa caldo, poi i bagni, poi... Certo, certo, quando fa caldo, adesso in queste settimane, ecco, in questi mesi, il caldo ci fa sudare molto di più, la barba trattiene un po' questo sudore e l'umidità. Questa è la ragione per cui chi porta delle barbe folte più facilmente può andare incontro a... delle dermatiti o un indebolimento, a volte anche delle follicoliti, quindi delle piccole infezioni del, del bulbo pilifero. Questo perché l'umidità favorisce la crescita di batteri o anche di funghi, e di conseguenza la pelle si indebolisce, certo, si può ammalare con più facilità. Dobbiamo quindi sempre, in caso di barba folta, asciugarla il più possibile, non lasciarla umida. E soprattutto quando facciamo il bagno in mare, sempre va risciacquata con l'acqua dolce. Non dimentichiamo che l'acqua dei nostri mari, anche se apparentemente è pulita, ma basta che ci sia un gommone a pochi metri di distanza o una piccola imbarcazione, vengono rilasciate delle quantità di benzina, di gasolio da questi motori marini, che creano una pellicola sull'acqua. Noi non la vediamo, vediamo il riverbero un po' bluastro, azzurrognolo a volte, quando l'acqua è calma, e questa pellicola di idrocarburi si viene trattenuta dalla barba. Questa è la ragione per cui in estate molti che hanno la barba vanno incontro a follicoliti, irritazioni della pelle. Quindi la pelle, io la taglierei, professor Di Pietro, che dice, per l'estate diamo una bella pulita, anche perché tutti questi germi, batteri, mi sembra un po' un sottobosco. Lo so, molto... però magari uno ci mette un anno per far la barba per poi sfoggiarla d'estate, esatto, quindi non so quanti degli amanti della barba accettino questa soluzione, però insomma, mi sembra, ecco, un po' scomoda. Comunque va bene. Allora, intanto un ascoltatore, ma qua siamo proprio all'ABC, chiede come eliminare i peli delle orecchie e del naso. Ma questo è facile, Andrea, lo sai anche tu, no? Io li taglio, non ecco, lo so. Si tagliano, ma professor Di Pietro, questo, ecco, Andrea dice banalmente si tagliano, ma da lei vogliamo qualcosa di più. Lo so, io purtroppo domande difficilissime. No, ci sono comunque delle, ci sono degli strumentini adatti, perché poi si rischia di farsi male con infilarsi. Sì, ci sono dei rasoi cilindrici, diametro di 5-6 mm, insomma, ecco, e dalle pareti di questo cilindro ci sono delle feritoie con delle lame, ecco, e questi sono degli aggeggi molto pratici con cui è possibile tagliare questi peli. Ecco, quelli vanno tagliati sempre, perché non si può vedere l'uomo con il pelo che esce dall'orecchio, perché nessuna donna gli suggerirebbe, o uomo, immagino, delle parole dolci. Tagliate questi peli dal naso, dalle orecchie, sono bruttissimi, come i peli sull'alluce. C'è una sta prendendo una deriva, ma intanto Daniele su Twitter mi scrive: leggo di uomini che per non soffrire prendono antidolorifici prima della ceretta. E beh, sì, si potrebbe prendere un Valium, ma allora... alcuni prendono anche Valium, perché così sì. Oh là là là là, questi uomini. Però, insomma, ecco. Non riescono a così sopportare il dolore della ceretta e hanno gli spermatozoi che calano di numero e si diventano... Noi dermatologi vediamo spesso le conseguenze poi però di queste cerette fatte in questo periodo, che sono le follicoliti, perché quando poi si strappano questi peli è facile che i pori che restano aperti possano con facilità infettarsi se si mettono magliette o canottiere sudate o se non si cambia spesso anche la biancheria, purtroppo cosa succede? Che molti ragazzi in estate, soprattutto se fanno viaggi in moto, vanno, portano poco bagaglio e la canottiera, la maglietta a volte viene messa per 2-3 giorni. Sì. Ecco. Questo può causare un pericolo perché dopo aver strappato i peli i pori restano più dilatati, c'è anche il trauma un po' dell'epilazione e è più facile che possano infettarsi, no? Questi pori, e adesso creano le follicoliti, che sono questi fruncoletti che compaiono in tutte le zone depilate, che possono rovinare anche la vacanza perché sono fastidiosi. Certo, quindi se vi depilate lavate bene la maglietta e biancheria intima in genere. Sempre pulita. Ecco, sempre pulita, freschi e puliti. Ci sono delle creme da utilizzare dopo aver depilato magari una parte estesa, penso alla schiena, penso al torace, per evitare la formazione di follicoliti? Sì, ci sono delle creme lenitive che calmano un pochino l'irritazione, sono soprattutto a base di ossido di zinco, funzionano bene anche nuove creme che contengono farina di riso, ecco, quindi polvere di riso che è un assorbente lenitivo, funziona molto bene, fino ad arrivare nel caso che ci siano già delle follicoliti in corso, delle creme o lozioni a base di aluchina, ne abbiamo già parlato anche altre volte, che è molto utile, è di una sostanza naturale, riesce a combattere le follicoliti anche da depilazione in maniera molto efficace, soprattutto in estate può essere utilizzata l'aluchina, queste creme con l'aluchina, perché non creano problemi con l'esposizione al sole. E quindi questi consigli li abbiamo fatti dare per i maschi, ma in realtà possiamo utilizzarli anche noi donne. 800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Abbiamo poi Loredana da Biella e Marco da Napoli, ma intanto Andrea, qua chiedo all'andrologo, perché sempre per gli spermatozoi, che mi sembra che abbiano pure le caldane perché il caldo lo patiscono, ecco, meglio il boxer o lo slip? 800 24 00 24, diventiamo molto intimi dopo le informazioni sul traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Cuore e Denari. Boxer o slip? Andrea. In realtà non c'è un meglio o un peggio, è molto alla preferenza del singolo. Questa è una domanda un po' capziosa, esattamente come quelle che hai fatto al nostro amico dermatologo. Non c'è un meglio. Siamo soliti suggerire agli uomini che abbiano, ad esempio, subito un intervento chirurgico ai genitali di utilizzare lo slip, che è un pelo più contenitivo. A proposito di peli. Ad esempio, un pelo più contenitivo. Però di base non c'è da preferire il boxer piuttosto che lo slip, è proprio alla soggettività del singolo. Quindi non è che uno tiene più caldo dell'altro, no? No, assolutamente. Allora, no. Su quello, almeno il costume o la biancheria intima... Credo che non ci siano stati studi molto molto rigorosi in questo senso, magari ad una marca di biancheria intima. Ecco. Marco, buongiorno da Napoli. Buongiorno. Buongiorno. Vada. Volevo riportare la mia esperienza di un uomo che aveva peli superflui sulla schiena e che non riusciva a risolvere il problema. Sì. E poi ho utilizzato un metodo laser delle sedute, che sono state veramente molto molto efficaci. E pensare che in 2 volte a distanza di 6 mesi non mi è più cresciuto un pelo sulla schiena. Il sistema non è quello della luce pulsata che avevo provato con risultati abbastanza scarsi, ma è quello dell'epilazione laser. Poi ho provato lo stesso sul viso, perché avevo anche una barba molto folta che saliva fin verso gli occhi, diciamo così. Sì. E l'ho provata sul viso e sulle orecchie, questa peluria che avevo sulle orecchie. Lì le sedute sono state diverse, anche certo. Una al mese, ma nell'arco di un anno adesso una barba molto ben definita, basta. Insomma, è un uomo felice, Marco da Napoli, sì. Ha vinto la sua lotta al pelo. Professor Di Pietro, sì, prima di salutarci, laser... Il laser funziona benissimo, noi però, prima stavamo parlando di pronto soccorso attivo e quindi proprio dell'ultimo momento, ma sicuramente avendo la possibilità durante l'anno di poter fare delle sedute laser, e ricordo che il laser migliore è il laser ad alessandrite, quello che dà i migliori risultati, il pelo può essere eliminato con molta facilità e con grande soddisfazione, insomma, ecco, di chi poi dopo si sottopone. Durante l'anno può essere fatto, ma all'ultimo minuto il laser no, perché, il laser no, perché poi sotto in estate, certo, meglio evitarlo. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito e buona estate. Siamo andati in vacanza e abbiamo detto tutti partono alle spiagge eccetera, ma sul tuo editoriale, io mi raccomando amici, andatelo a leggere, perché Andrea Salogna, stando con noi, è sbocciato anche uno scrittore, domani chiameranno domani il libro che di cui abbiamo più volte parlato e che io vi invito a leggere quest'estate, sono proprio spudoratamente, faccio questo promo. Tu parli di uomini invece soli, la solitudine, dici, è più tipica dell'uomo, anche se è un nome femminile. La solitudine è, ahimè, più tipica dell'uomo, e quello che ho voluto sottolineare in editoriale è proprio il fatto che sia molto facile osservare nelle grandi città degli uomini soli pencolare a destra manca o stare sui balconi ad osservare la gente. Questo a Milano quantomeno, che è la nostra città, è molto facile. E quello che ho voluto utilizzare come chiosa del mio scritto di oggi è proprio quello relativo al non dimentichiamoci che talvolta la solitudine è agognata, ma tal'altra, il più delle volte, ahimè, non lo è affatto. E quindi il fatto di lasciare da soli i nostri, non sempre anziani, perché non è sempre vero che sia così, deve esserci di monito e ci deve aiutare a molto riflettere. La solitudine negli uomini spesso è associata a depressione, e questo deve essere considerato elemento di rimente anche nella prevenzione delle malattie, nell'aiuto e nell'ascolto. Lo dico da andrologo, che ha messo al centro della propria professione, della propria ricerca, il concetto di maschio, di maschilità e non solo. Non abbiamo paura di chiedere aiuto se, non dobbiamo aver paura di chiedere aiuto se per caso ci fosse una deflessione del tono dell'umore, una sindrome di ansia, piuttosto che l'essere proni alla solitudine, perché soprattutto d'estate questa si manifesta in modo violento. Ecco, e questo proprio l'estate, il periodo dell'anno in cui tutti vanno in festa, esatto, e sentono, molte persone sentono proprio la festa nel cuore, certo, raccontano si avverte ancora di più, come sempre anche durante le ricorrenze, assolutamente, come quelle del feste, Natale, le feste obbligate. Ecco, quindi noi adesso ci trasferiamo in cucina, perché Andrea Ribaldone è in linea con noi. Sono molto curioso. Ed è pronto, ma ecco, noi vogliamo lasciarvi con questa raccomandazione. Abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo affrontato argomenti seri, argomenti di servizio come quelli di Cuore Denari, per gli artigiani, per i voli. Ecco, vi lasciamo con questa raccomandazione. Se vi sentite soli, se avvertite questa profonda tristezza, se le vostre giornate, specie in estate con il caldo agostano, le città che si svuotano, vi sembrano difficili, non restate soli, chiedete aiuto. Aiuto, è fondamentale. E noi abbiamo chiesto un altro genere di aiuto ad Andrea Ribaldone, a cui, dando gli ingredienti, abbiamo chiesto di prepararci due piatti per la fertilità che voi vi preparerete. Soprattutto invitiamo a inserire nel menù alle coppie che ci stanno ascoltando e che cercano magari di diventare genitori, e con gli auguri di proprio di cuore miei, di Andrea e anche di Andrea Ribaldone. Che cosa ci hai preparato? Devono essere, eccomi, semplici, perché non si deve stare tanto in cucina, ci si deve incontrare. Ecco, Andrea. Eccomi qua. Allora, due piatti velocissimi per l'estate e spero davvero utili anche per la fertilità. Allora, il primo, acciughe in carpione da servire freddo, quindi perfetto per l'estate. Acciughe già deliscate, le fate fare in pescheria di fiducia, non c'è nessun problema, quindi pesce azzurro, poco costoso, le cuocete con un filo d'olio a fiamma bassa in una padella, ma proprio un filo d'olio, due minuti da una parte e dall'altra. A parte preparate il carpione, molto semplice, mezzo litro di vino bianco, un bicchiere di aceto di vino bianco. Fate sobbollire, così va via la parte alcolica completamente. Lo assaggiate quando non sentite più, appunto, che la parte alcolica del vino e anche dell'aceto. A quel punto va bene. Salate leggermente e avete messo le acciughe in un contenitore, versate questo liquido che si chiama proprio carpione e lo conservate in frigorifero. Lo servite poi quando avete voglia, freddo va benissimo, anche da portare al mare per chi è al mare, e con magari della cipolla rossa o cruda o anche questa ripassata leggermente in padella con un filo d'olio. Un po' di insalata fresca e il piatto e voilà. È perfetto. E il secondo piatto, abbiamo un minuto. Velocissimo anche questo. Io userei, tutti parlano sempre di tonno rosso, in questo caso userei o la palamita o il bonito, che sono due tonnetti, sono anche più piccoli, quindi meno problemi anche legati al mercurio, di cui si parla sempre nei grandi pesci. Quindi palamita o bonito, costano davvero poco e sono buonissimi, in Italia è sempre fresco, lo trovate senza problemi. Anche questo già pulito, ve lo fate fare in pescheria, un trancio di palamita. Fate con i fagioli cannellini, quindi legumi, come si era detto, una crema. Potete usare, se non avete tempo e voglia, potete usare anche quelli in scatola. Li togliete l'acqua. Sì, proprio quelli userò. Poi io frullo. Frullate velocemente a fare una bella crema da servire anche questa fredda, perché è estate, vogliamo tutti i piatti freddi. Scottate la palamita velocissimamente in padella e la ponete sopra questa crema di fagioli cannellini, sarà davvero un piatto per l'estate. Un piatto per l'estate magnifico, e gli spermatozoi faranno festa. Li abbiamo anche portati a tavola. Andrea Ribaldone, ciao. grazie ciao, ad Andrea. Grazie a voi. Grazie a voi. Nico. Che bello. In bocca al lupo a voi. Buona e speriamo estate. Anche a noi. Intanto buona estate, pensatemi. Buona giornata, io penserò a voi. L'estate.